Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Con più di 250.000 persone impiegate direttamente e indirettamente nella manifattura e con circa 390.000 veicoli prodotti nel 2016, quello dell'automotive è un settore centrale nel tessuto produttivo nazionale, ma è anche uno dei segmenti che ha più risentito della crisi finanziaria mondiale, che ha investito anche il nostro paese. 10 anni nell'industria autoveicolistica in Italia è il titolo del documento realizzato da ANFIA per tracciare un quadro completo del settore, compreso quello del trasporto merci, prima e dopo la crisi. I dati sulle immatricolazioni, il numero degli addetti, l'età del parco veicolare e la distribuzione dei mezzi in Italia, infatti, sono elementi essenziali per comprendere meglio quello che è accaduto e per ipotizzare scenari futuri. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ed oggi ci occupiamo di un documento elaborato da ANFIA, grazie al quale abbiamo una fotografia molto ampia su questo settore, con dati su immatricolazioni, numero di addetti, età del parco veicolare, distribuzione dei mezzi in Italia. Insomma, uno stato dell'arte che credo sia abbastanza importante per questo settore e soprattutto quali sono probabilmente gli scenari futuri che in qualche modo lo caratterizzeranno. Parliamo di tutto questo oggi in compagnia del nostro ospite che è Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Quanti sono gli addetti alla produzione e cosa è cambiato in questi anni, appunto fra il 2008 e il 2015, gli anni alla base della vostra analisi? Devo dire che la situazione degli addetti in Italia in questi ultimi 8-9 anni è rimasta abbastanza stabile per quanto riguarda la produzione. Abbiamo sicuramente vissuto anni difficili intorno al 2011, 2012, 2013, anni chiaramente difficili a causa della crisi mondiale che ha toccato in particolar modo anche il nostro paese, però a distanza di qualche anno il livello occupazionale è abbastanza simile al periodo pre-crisi. Stiamo parlando all'incirca di 160-165 mila persone che in Italia lavorano nell'ambito della produzione di veicoli, di componenti che vanno sui veicoli, e se aggiungiamo anche i lavoratori indiretti arriviamo oltre 250 mila persone impiegate proprio nella parte manifatturiera del nostro settore. Giusto per dare una percentuale sul totale del manifatturiero, noi rappresentiamo circa il 7% degli addetti appunto della manifattura in Italia. È interessante poi aggiungere anche a questo specifico segmento di persone che lavorano sulla produzione anche le persone che lavorano nei servizi, nel settore dell'auto, arriviamo a oltre 1 milione di persone, per cui rappresentiamo a oggi il primo datore di lavoro privato in Italia, per cui è un settore che va in qualche modo tutelato, difeso e sviluppato, certo, anche nei prossimi anni. Ecco, quindi contrariamente a quello che ci si aspettava, vista anche un po' la crisi degli ultimi anni del settore, rimane un mondo assolutamente centrale per quanto riguarda il tessuto produttivo italiano. Ma qual è l'andamento della produzione nazionale e quindi anche dell'export per i veicoli commerciali e per i veicoli industriali? Allora, per quanto riguarda i veicoli commerciali e gli autocarri, per cui i veicoli pesanti, l'andamento è positivo. Se prendiamo come riferimento sempre il 2007, per cui diciamo l'ultimo anno prima della crisi, in Italia venivano prodotti circa 370.000 autoveicoli, nel 2016 abbiamo toccato i 390.000, per cui un dato significativo perché siamo in crescita, un 6-7% in più rispetto a 10 anni fa. Vorrei però ricordare che nel 2009 abbiamo toccato il livello più basso, 180.000 veicoli prodotti, per cui nel 2009 c'è stato un picco in discesa che ha significato almeno 50% della produzione rispetto a qualche anno prima, per cui un recupero importante dopo aver visto in qualche modo il baratro. Un tema fondamentale che hai citato tu è l'export. Questo è un settore che possiamo definire export oriented perché nel 2016 quasi 4 veicoli su 5 prodotti in Italia sono stati esportati, per cui l'80% della produzione italiana è andata fuori dal nostro paese. Per due sono le ragioni di fondo: da una parte la capacità della nostra industria di penetrare meglio mercati esteri, dall'altra anche un calo fisiologico del mercato in Italia che ha portato chiaramente a crescere le dimensioni dell'export fuori dal mercato domestico. Ecco, contrariamente a quanto si immagina, noi non produciamo solo autocarri, ma produciamo anche rimorchi, semirimorchi, insomma tutto ciò che è legato alla movimentazione delle merci, oltre ovviamente ai veicoli commerciali leggeri. Ecco, volendo spacchettare questi dati, come sono andati questi segmenti? Ma sicuramente tutti e tre i segmenti hanno vissuto, come dicevo prima, un calo fortissimo negli anni della crisi in termini di produzione e nel 2015-2016 sia sui commerciali leggeri ma anche sui pesanti abbiamo raggiunto di nuovi livelli pre-crisi. Sui rimorchi e semirimorchi invece c'è ancora un po' più di strada da fare. A livello di mercato la situazione è migliorata, però mancano ancora alcuni volumi di produzione che speriamo di recuperare nei prossimi anni. Ecco, gli incentivi che sono stati promossi dal governo in questi ultimi anni per il ricambio del parco veicolare, la maggior parte legati alle motorizzazioni Euro 6, ma anche per il ricambio di rimorchi e semirimorchi che sono stati anche rifinanziati di recente, hanno agevolato questo tipo di ripresa? Assolutamente sì, diciamo che per rimorchi e semirimorchi il decreto investimenti è stato uno strumento utilissimo per rinnovare il parco e mettere sulle strade mezzi sicuramente più sicuri e ambientalmente più compatibili. Importantissima la misura di oltre 14 milioni che ha garantito il rinnovo anche di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato. Non dimentichiamo anche che i veicoli allestiti in regime di ATP sono oggetto di questo decreto, per cui devo dire che insieme al superammortamento e alla legge Sabatini anche il decreto investimenti è stato un motore importante per la difesa del settore. Ecco, superammortamento, lo vogliamo ricordare, che dovrebbe essere riconfermato, non abbiamo ancora ovviamente la certezza ufficiale, ma insomma dalle bozze che girano dovrebbe essere riconfermato anche per i veicoli industriali. Al 130 invece che al 140, però rispetto all'indicazione iniziale che li aveva addirittura completamente esclusi, probabilmente comunque è una notizia positiva per chi si occupa di movimentazione di merci. A proposito proprio di età del parco veicolare, molto spesso si lancia un allarme perché in Italia questo parco veicolare, soprattutto per quanto riguarda il trasporto merci, è particolarmente anziano. Do due numeri che spiegano e danno un po' la fotografia della situazione del parco oggi in Italia. Innanzitutto tra veicoli commerciali e autocarri abbiamo circa 5 milioni di veicoli e sono circa 370.000 rimorchi e semirimorchi. Purtroppo in Italia l'età media è molto più alta che in Europa, un 13 anni rispetto a 11 anni e mezzo dell'Europa, ma il numero che fa più impressione è il fatto che il 62% di questi veicoli sono ante Euro 4 e hanno più di 10 anni, per cui è necessario assolutamente sveltire le procedure di rinnovo del parco, e abbiamo parlato prima di alcuni strumenti che stanno andando bene, però che bisogna continuare anche nei prossimi anni su questa direttrice. Un altro forse elemento interessante è che la percentuale di veicoli di alimentazione alternativa sono solo il 3-3,5% del totale del parco. Anche in questo caso è utile introdurre sempre più veicoli che abbiano un impatto minimo sull'ambiente, e per esempio la tecnologia del metano liquido può essere una buona